in primo piano. Buongiorno, buon martedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che oggi rispetto a ieri hanno aperture un pochino più omogenee e soprattutto hanno temi forti, come avete sentito anche nel GR, in particolare il piano sulla previdenza che potrebbe riguardare fino a 350.000 lavoratori. Cominciamo però dal Sole 24 Ore che oggi per il settimo giorno prosegue l'iniziativa Focus Estate con tutte le novità per i professionisti. Oggi alle pagine 28 e 29 ci sono tutte appunto le novità per quanto riguarda le convivenze, gli unioni e le unioni civili, perché sapete che dopo l'approvazione di questa legge, proprio nella settimana scorsa e presumibilmente anche nelle prossime settimane, si stanno proprio celebrando le prime unioni civili nelle grandi e piccole città italiane, quindi si entra proprio nel vivo dell'applicazione della legge e di tutto quello che poi viene dopo, dopo che viene sancita appunto l'unione civile. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore però vi segnalo il titolo che riguarda quello che è successo ieri in borsa. C'era molta attesa come sempre al lunedì per capire se continua il trend ribassista di tutte le borse europee e soprattutto se quella italiana, dove tra la borsa italiana, la borsa di Milano, è quella in cui i titoli bancari hanno il peso maggiore, quindi alla fine l'andamento di una giornata è veramente fortemente legato all'andamento dei titoli bancari più che sulle altre piazze europee e non solo. Ieri i titoli bancari sono andati bene, tranne MPS, e quindi bancari e poi dati sulla crescita americana spingono al rialzo le borse. Viene, tra l'altro, a proposito di crescita americana, c'è un'interessante analisi di Mario Platero che penso da sempre il corrispondente degli Stati Uniti, del corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, che parla di questo piano economico presentato ieri da Trump, che si sta avvalendo di una commissione di un team di esperti, di economisti. Era molto attesa questo reality check, proprio al di là di tutte le boutade fatte durante la convention prima e dopo, e quelle che vengono anche definite gaffe, e poi gli endorsement abbastanza imbarazzanti del Ku Klux Klan o del partito dei nazisti americani, questo invece è un piano molto concreto, è focalizzato soprattutto sul taglio delle tasse, e appunto Mario Platero lo analizza. Il pezzo inizia in prima pagina e continua a pagina 6. Sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo un colloquio che poi trovate per intero alle pagine 17 e 18, che Laura Galvani, una collega della redazione di Finanza, e Cristian Martino, che è il responsabile di tutta l'area finanza del Sole 24 Ore, hanno avuto con Marina Berlusconi, che è in vacanza in questo momento in Sardegna, ma come molte manager con ruoli come il suo, poi alla fine è ben disposta anche a parlare di lavoro, specie quando c'è una questione molto importante in questo momento, che è la vendita di Mediaset Premium a Vivendi, il gruppo francese guidato da Bolloré, che sta incontrando alcuni ostacoli. Nel frattempo intanto però ha raggiunto un primo importante traguardo, anche se il closing è atteso per la fine di questo mese e poi ci sono ulteriori scadenze diluite nel tempo. Comunque è arrivato l'accordo per la vendita del Milan, lo avete sentito nei giorni scorsi, si parla anche di questo. E poi vi dicevo la previdenza, richiamata in prima pagina tutte le nuove regole, e poi che dicevamo potrebbe riguardare fino a 350.000 lavoratori, i dettagli li trovate tutti a pagina 5. Il Corriere della Sera, come molti altri giornali, apre invece sul Via Libera che è arrivato ieri dalla Cassazione al referendum. Era molto atteso perché poi da questo dipende la decisione della data in cui si voterà, che però non è ancora stata presa, la dovrebbe prendere il prossimo Consiglio dei Ministri, che potrebbe essere prima della pausa estiva ma potrebbe anche essere dopo, quindi grande incertezza sulla data. Renzi ha definito questo ok della Cassazione un segnale positivo, e però nel frattempo all'interno del suo partito la cosiddetta minoranza Dem ha ricominciato a parlare proprio di comitati per il no all'interno del partito, anche se la posizione ufficiale del partito, lo ha ribadito ancora ieri il vicepresidente del PD, è di votare sì al referendum. La fotonotizia è dedicata al messaggio di ieri dell'imperatore giapponese Akihito, che ha 82 anni, però ha una salute particolarmente instabile, cagionevole, e della prima volta che fa un messaggio così sincero in televisione alla nazione. E soprattutto il problema è che la Costituzione giapponese non prevede l'abdicazione, quindi da una parte lui dice io non ce la faccio più, però bisogna trovare una via d'uscita. Un interessante, visto che poi parleremo anche di Olimpiadi, Sergio Rizzo si concentra sulle Olimpiadi sulla prima pagina del Corriere della Sera, ma tornando sulla questione di Roma. Roma, lo sapete, era candidata alle Olimpiadi del 2024. Ieri il Wall Street Journal ha detto che forse è una delle città favorite. A Rio Renzi ha detto chiaramente con il presidente del CONI Malagò che lui continua a essere favorevole, ma nel frattempo Roma e il sindaco di Roma ha un ruolo importante nel ribadire, nel rafforzare, nel continuare la campagna per la candidatura di Roma. Il sindaco Virginia Raggi per ora, come aveva detto in campagna elettorale, è contraria ad ospitare le Olimpiadi a Roma del 2024, perché tutti i soldi necessari, e ricordiamo che quelle di Rio probabilmente alla fine saranno costate circa 20 miliardi di euro, quei soldi vanno usati in un altro modo, soldi che tra l'altro comunque in questo momento non ci sono perché il bilancio di Roma fa acqua da tutte le parti. Ci fermiamo un attimo però per le informazioni sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, abbiamo visto le prime pagine del Sole 24 Ore e del Corriere, ora quella della Repubblica che è sostanzialmente divisa in due con al centro una foto. La foto è molto bella, c'è un momento della partita di beach volley tra Egitto e Germania, la ragazza tedesca è in bikini mentre la ragazza egiziana porta il suo hijab e quindi il titolo è Rio, hijab e bikini si incontrano a rete. Ma i due titoli, come vi dicevo, sono uno sul referendum, quindi è scontro sulla data, come dicevamo il referendum, la Cassazione ha detto d'accordo si può votare, ma sta al governo fissare la data. L'altro titolo, leggermente più grande, tra l'altro, riguarda la questione dei migranti, con i due fronti caldi di queste ore, da una parte Ventimiglia, quindi il fronte con la Francia, e dall'altra Como, quindi il fronte con la Svizzera. Ci sono i reportage dei due inviati, da Ventimiglia di Corrado Zunino e da Como di Piero Colapprico. La Gazzetta dello Sport anche oggi riesce a non dare il titolo principale alle Olimpiadi, ma lo dà all'arrivo del nuovo allenatore dell'Inter, Frank de Boer, l'olandese che a 46 anni è fotografato circondato da microfoni al suo arrivo all'Inate. Sopra però nel cosiddetto palchettone, che è quello spazio che sta sotto il nome della testata, per fortuna ci sono le notizie da Rio. L'Italia mira e vince con gli aggiornamenti sulle ultimissime medaglie che, come sappiamo, sono arrivate dalla carabina. Il Messaggero sceglie proprio di dedicare praticamente tutta la prima pagina alla questione delle pensioni, pensioni flessibili per tutti, con tutti i dettagli. Richiamato in prima pagina anche però la questione dei rifiuti, perché è previsto un vertice tra il sindaco Raggi e il suo assessore Muraro, sulla quale si è scatenata questa tempesta per via delle consulenze fatte negli anni scorsi all'azienda municipalizzata della Lama, che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, che ha un buco enorme che va risanato. E appunto ci si chiede in 10 anni queste consulenze pagate oltre 1 milione che scarsi risultati abbiano avuto. Tra l'altro, come avevamo già citato ieri, c'è l'altro grandissimo problema a Roma, che è quello dell'ATAC, cioè il trasporto pubblico. Il Messaggero ieri parlava di questa emergenza anche solo per fare la manutenzione ordinaria dei mezzi che si stanno rompendo, e poi naturalmente ci sarebbe anche il capitolo del rinnovamento del parco mezzi, e proprio per questo caos e per questa mancanza di fondi e anche di organizzazione probabilmente per ripararli, è a rischio a questo punto il 40% delle linee. E poi, sempre in prima pagina, notizia che riguarda lo stadio di Roma, l'Olimpico, la trovate anche su altri giornali, non con questa enfasi, per la prima volta in Italia saranno registrati i volti dei tifosi, e quindi con questa tecnologia che è l'impronta biometrica, si potranno poi, almeno in teoria, riconoscere tutti i visi che sono entrati ai tornelli, e poi magari confrontarli con le fotografie di chi ha magari infranto la legge in qualche modo una volta all'interno dello stadio. La Stampa titola sui migranti: Milano in emergenza, perché ho detto che i fronti caldi sono Ventimiglia e Como, però anche a Milano c'è un'emergenza. Il comune ha ammesso che c'è un'onda record di migranti e che, complice anche il tempo che permette loro di anche dormire all'aperto, c'è proprio un rischio che le strade, soprattutto in alcune parti della città, si riempiano di migranti che non hanno alcun altro posto dove andare. Dalla prima pagina della stampa, che è di fatto divisa in due, c'è poi un riquadro con le due foto di Nicolò Campriani, che ieri ha vinto di nuovo l'oro nel tiro a segno, bissando il successo già delle Olimpiadi di 4 anni fa a Londra, e poi la quarta medaglia invece per Giovanni Pellielo, anche lui grande foto, e fa con la mano segno di 4, la sua è una medaglia d'argento, però ha 46 anni e ha già detto: ma io sto già pensando alle prossime Olimpiadi, quelle che si terranno a Tokyo nel 2020. L'Avvenire è l'unico giornale che apre sulla strage che c'è stata ieri in Pakistan, a Quetta, e per ora l'Avvenire parla di 70 morti, in realtà probabilmente sono già di più. Il titolo: la strage del diritto, perché il kamikaze si è fatto saltare in aria proprio nella struttura durante l'estremo saluto a Bilal Anwar Qazi, che era il presidente degli avvocati locali, che era stato ucciso qualche ora prima in un altro attentato. E poi, e così anche rispondo a un ascoltatore che ieri diceva: ricordatevi di Marcinelle, perché in effetti proprio ieri cadeva questo importante anniversario, perché l'8 agosto del 1956 si verificò uno dei più gravi incidenti nelle miniere in Europa e anche nel mondo. Morirono in questa miniera di Marcinelle in Belgio quasi 300 minatori. La maggior parte di loro, la stragrande maggioranza di loro, erano italiani che erano andati in Belgio per fuggire alla povertà in Italia. E infatti anche ieri il presidente Mattarella, ricordando questa data e questa tragedia, ha fatto anche un passaggio dicendo: ricordatevi che tutto sommato pochi anni fa i migranti eravamo noi, ed eravamo noi italiani, ed eravamo noi andare a lavorare in condizioni di scarsissima sicurezza. E quindi appunto l'Avvenire mette in prima pagina due foto, una dei migranti di oggi, non è scritto dove è stata scattata, ma in uno di quei fronti caldi di cui parlavamo, e l'altra è un'immagine storica appunto di due minatori, e viene citato il ricordo del presidente Mattarella, che ha detto: pure noi siamo stati emigranti, e questo dovrebbe farci capire che dobbiamo fare tutto il possibile per accogliere i profughi. Vi cito Il Secolo XIX, il giornale di Genova, perché abbiamo detto uno dei fronti caldi è Ventimiglia, quindi ovviamente Il Secolo XIX apre su questo. Dice Ventimiglia: il piano Gabrielli. Gabrielli, che è il capo della polizia, è andato a vedere cosa sta succedendo e ha ammesso anche lui, senza, naturalmente constatando la situazione ma senza per ora dire che cosa si potrà fare in concreto, ha detto testualmente: è necessario decomprimere la situazione. L'unità ha un titolo a tutta pagina, che è questo: è il referendum degli italiani, referendum pure con la R maiuscola, e il riferimento naturalmente è alla decisione che è arrivata ieri della Cassazione, data con una certa enfasi, e tant'è che poi il commento alla decisione è parte di quello che ha detto ieri Matteo Renzi, e viene sintetizzato nel titolo: questa è la sfida di un popolo. Un altro editoriale di Fabrizio Rondolino, anche lui insomma mai esente da posizioni forti o da modi anche contestabili di esprimere il suo pensiero, chiama questo referendum le nostre Olimpiadi. Il pezzo comincia in copertina e poi continua a pagina 3. Il Libero, titolo completamente diverso, una foto di Laura Boldrini, presidente della Camera, la nostra Camera Bassa del Parlamento, e Pietro Grasso, presidente del Senato, la Camera Alta. Il titolo è: questi due ci hanno scocciato, vengono definiti i tifosi dei profughi, e c'è l'accenno a quello che succede a Ventimiglia con questo movimento No Border, che viene definito dal Libero i nuovi No Global pro immigrati, armati di tutto punto, che organizzano la guerriglia contro le forze dell'ordine, e gli agenti ci lasciano le penne. Boldrini e Grasso non perdono occasione per fare uno spot pro invasione. E a proposito di questi agenti, cito testualmente il titolo di Libero, che ci lasciano le penne, in riferimento naturalmente al poliziotto che è morto 3 giorni fa perché gli è venuto un infarto proprio mentre partecipava a queste azioni di contenimento dei migranti alla frontiera di Ventimiglia, c'è un commento di Vittorio Feltri, che è il direttore di Libero, che si intitola «I poliziotti obesi e sopra i 50 anni stiano in ufficio». E stranamente, se vogliamo, perché comunque Libero ha lasciato intendere anche con questo sommario di oggi che c'è una correlazione tra il modo in cui hanno organizzato le proteste, questi no border, e la morte del poliziotto. E invece Vittorio Feltri tutto sommato dice il contrario e dice la morte di Turra. Il poliziotto morto d'infarto a Ventimiglia aveva superato i 50 anni ed era in sovrappeso. Tra l'altro, il titolo ha una sfumatura ancora diversa perché è testuale: gli agenti obesi lasciateli in ufficio. C'è una foto di Diego Turra che ha 53 anni, sicuramente in sovrappeso, obeso forse no. In ogni caso, questo è il titolo. Non avrebbe dovuto essere in piazza. Ogni altra polemica, scrive Feltri, su questo caso è del tutto pretestuosa, ma è le ultime righe di questo pezzo, che, come vi dicevo, inizia in prima pagina e continua in tre, che mi hanno abbastanza colpita e ve le leggo. Quindi ogni altra polemica nel merito dell'incidente in questione è puramente protestuosa. Ci appelliamo al ministro dell'Interno Angelino Alfano affinché accolga la nostra preghiera. Lasci che, cito testualmente, i vecchietti grassocci e un po' bolsi siano in caserma invece che per strada. 53 anni vecchietto mi sembra veramente un po' esagerato. In ogni caso, questo è. Poi, tra l'altro, vedremo anche perché, a proposito di giudizi frettolosi e, lo dico proprio senza mezzi termini, offensivi sull'aspetto fisico delle persone, siano esse uomini e donne, in prima pagina Libero pubblica anche un articolo di tale Giordano Tedoldi, che fa riferimento al titolo di ieri del Resto del Carlino, che noi non abbiamo visto perché il Resto del Carlino è una parte del quotidiano nazionale che viene distribuita soltanto in Emilia-Romagna. Noi riceviamo una versione dove c'è molto spazio invece a tutta la Lombardia. Ecco lì il titolo era «Hanno vinto le tre cicciottelle». Tre cicciottelle sono le ragazze dell'arco, che sicuramente non sono filiformi, però questa è la definizione migliore che ha trovato, l'aggettivo migliore che ha trovato il Resto del Carlino ieri per descriverle. E questo, siccome poi c'è stata una discreta reazione, e tra l'altro credo che di questo in generale del giudicare le persone dall'aspetto fisico si parlerà anche dalle 8:15 in poi a Ma che estate è? Ci sono state alcune reazioni e queste reazioni vengono definite eccessi idioti del politicamente corretto. Il giornale torna sulla questione, a sua volta sulla questione dei migranti e del tipo di scontri che ci sono in questo momento, soprattutto a Ventimiglia, e che vedono appunto protagonisti, oltre ai migranti, questo strano movimento no border che purtroppo ricorda per molti versi i Black Bloc. E quindi il giornale con quest'arma volevano uccidere i poliziotti. La foto è di un poliziotto che con una delle armi sequestrate ed è effettivamente impressionante perché sono quella specie di guanti metallici che si mettono sulle mani, a volte per picchiare per dare dei pugni appunto particolarmente efficaci. Qui addirittura oltre ai pugni hanno delle lame. Mi viene in mente davvero, chi l'ha visto di voi, Wolverine di X-Men, ecco, una cosa del genere. E quindi il titolo: spranghe, coltelli e un artiglio da film horror, per l'appunto, sequestrati ai no border a Ventimiglia. Un accenno su una vicenda che trovate in prima pagina anche sul Corriere, però con forse un pochino meno enfasi, è quella di ieri dell'appello di Grillo, che si è reso conto che soprattutto per fare una campagna adesso in questi mesi che restano per votare la campagna del Movimento 5 Stelle e per votare no al referendum, servono molti fondi, servono molti soldi, le iniziative costano e quindi Grillo batte cassa e chiede soldi ai militanti. Il titolo del pezzo è 5 Stelle al Verde. Un'ultima segnalazione prima di lasciarci un attimo per una breve pausa. Il Fatto Quotidiano torna, come ieri titolava su Renzi, oggi ancora Rai non si scherza su Renzi. Pare infatti che delle direttive, non si capisce bene se siano atteggiamenti, diciamo, da persone che sono più realisti del re, cioè si autocensurano, però pare appunto che a Radio 2, per esempio, ci sia questa sorta di diktat non detto che volte non si deve parlare male, non si deve scherzare, non si deve fare satira sul governo. E ricordiamo che Radio 2 anche è stata al centro nei giorni scorsi di molte polemiche. Il suo nuovo direttore artistico è Carlo Conti, che ha condotto l'ultimo conduttore del Festival di Sanremo, sarà anche il conduttore del prossimo Festival di Sanremo, e non sono piaciute le sue prime scelte, quindi Radio 2 di nuovo un po' nelle polemiche, soprattutto insomma, materiale ghiotto per il Fatto Quotidiano. Ci lasciamo un attimo per una pausa, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine dei giornali, stanno arrivando un po' di messaggi, io ringrazio tutti quelli che insomma mandano messaggi positivi, di incoraggiamento, mi fanno molto piacere, ma ringrazio anche chi è molto critico, mi piacciono molto le critiche costruttive, magari con toni non troppo aggressivi, ma vanno bene tutte in realtà. E quindi c'è un ascoltatore che come ieri mi chiede di chiamare i migranti clandestini, io invece continuerò a chiamarli clandestini nella maggior parte dei casi e non mi sento per questo filo governativa, anche se lui sostiene questo. Tra l'altro, se volete appunto mandare messaggi, il numero per gli SMS è 349-238-6666 e se volete mandarmelo invece direttamente, come ho detto ieri, sono su due social network e forse sono anche troppi, Twitter Giulia - Crivelli e su Facebook. Torniamo alle prime pagine, il manifesto. Il manifesto ha una foto di Renzi vicino a Maria Elena Boschi, scattata in Parlamento, proprio negli scranni dove siedono i membri del governo. Naturalmente la notizia è quella di ieri del sì della Cassazione al referendum, però il palchettone questa volta, cioè quella parte appunto sotto la testata, come ha fatto l'Avvenire, è dedicato all'attentato in Pakistan. Il manifesto parla di 69 vittime, probabilmente ha chiuso un po' prima dell'Avvenire e quindi non sono riusciti a aggiornare il bilancio, che purtroppo nel frattempo si è aggravato. Ma andiamo alle pagine interne dei giornali e torniamo sul Sole 24 Ore con tutti questi temi economici o finanziari che magari chi ha poca dimestichezza con la finanza, vale anche per me, considera forse o troppo complicati o troppo lontani dalle proprie vite, in realtà poi ci sono conseguenze, purtroppo la finanza è strettamente legata all'economia reale, magari non sempre in modi virtuosi. E da qui l'approfondimento a pagina 3 del Sole 24 Ore, un po' appunto per, come dicevamo, riassumere la giornata di ieri, che è stata positiva per tutte le borse tranne New York, che però ha perso solo 0,09. La migliore è stata Tokyo a livello mondiale, che ha guadagnato il 2,44, però invece Milano in Europa è stata la migliore, ha guadagnato lo 0,71. Poi purtroppo ci sono, oltre agli andamenti di ieri, anche gli andamenti dall'inizio dell'anno, e in questo caso sono tutte negative tranne Londra e New York. Forse ricorderete, credo venerdì abbiamo letto un'analisi di Vittorio Carlini sulla discrepanza che spesso c'è tra i risultati dei bilanci, quindi il fatturato magari in crescita, la redditività, i vari indici di redditività, la percentuale di redditività sul fatturato, che è un altro indice importante, l'indebitamento. Magari questi dati sono positivi, però poi l'andamento in borsa è negativo. L'analisi, questa volta ancora più approfondita, ci rispiega Vittorio Carlini che quello che ci sta, il messaggio che sta dando la borsa dall'inizio dell'anno soprattutto, e dall'inizio dell'anno ci sono state almeno due tornate di dati trimestrali, la borsa dà meno importanza ai bilanci. Del focus sulle unioni civili vi ho già detto, l'editoriale sulla politica fiscale di Trump lo trovate a pagina 6 e nel dettaglio quello che prevede questo piano presentato ieri da Trump lo trovate in un pezzo di Marco Valsania a pagina 6. Invece la copertina di Imprese e Territori è dedicata a un'inchiesta che poi continuerà nei prossimi giorni, di Paolo Bricco, che parla di quella che viene definita Industry 4.0, cioè come si evolve il sistema manifatturiero. La Germania è il primo paese manifatturiero in Europa, poi ci siamo noi. Quindi è una questione che riguarda anche noi, sia per fare confronti, per capire che cosa è meglio dello schema tedesco e quali invece sono i nostri vantaggi. E quella che appunto viene definita la questione industriale, prima puntata tutta dedicata alla Germania, che, come ci spiega Paolo Bricco, mette al centro la fabbrica e il costante monitoraggio del suo buon funzionamento, quindi il famoso tema dell'efficienza. l'approfondimento, come ogni giorno, della nostra inviata a Rio, Maria Luisa Colledani, oggi si concentra su queste vittorie che arrivano da paesi, da atleti di paesi molto piccoli e che però danno, possono avere del, proprio un possono innescare un circolo virtuoso sia mediatico che di ottimismo nel paese. Può sembrare esagerato che una semplice medaglia ai Giochi Olimpici causi tutto questo, e invece succede. Il titolo del pezzo è Microstati in cerca di gloria globale. In caso di medaglia, come è successo per il Kosovo nel judo, la ragazza del Kosovo che ha battuto la nostra Odette, si accendono i fari dell'attenzione mediatica. Alle pagine 28 e 29 il focus, come vi dicevo, di oggi della guida per i professionisti, e poi ecco l'approfondimento sulla richiesta che ha fatto ieri Grillo. Emanuela Buzzi, a pagina 7 del Corriere, Grillo si riprende la scena, ha mandato una mail a tutti, è arrivata anche a me, io non so come faccio a essere una mail in una mailing list dei 5 Stelle, non perché abbia qualcosa in particolare contro i 5 Stelle, ma non sono in nessuna mail di partito o movimento politico per scelta, insomma, quindi però in qualche modo hanno trovato il mio indirizzo e mi arrivano mail. Settimana scorsa me ne è arrivata una in teoria, cioè direttamente da Alessandro Di Battista e un'altra da Luigi Di Maio, ieri da Peppe Grillo, che chiedeva anche a me questo contributo, chiede soldi agli attivisti, dopo le spese per le urne mancano i fondi per Italia 5 Stelle. Il Corriere, come del resto anche la Repubblica, ha ben due pagine sulla questione a cui abbiamo accennato, dell'imperatore giapponese Akihito, che ieri alla televisione, ma anche si sono viste queste immagini, un messaggio che non è durato tantissimo, meno di un quarto d'ora, trasmesso anche nei maxi schermi, quelli di Tokyo, che fanno sembrare Tokyo una città un po' da Blade Runner, perché Tokyo, soprattutto nella parte più centrale, ha appunto tutti questi schermi che normalmente vengono usati per la pubblicità. Ieri per 10 minuti è apparso il volto stanco e il corpo esile dell'imperatore, e qui appunto da Tokyo ci racconta l'inviato del Corriere: il sovrano giapponese spiega di essere stanco. Il premier Shinzo Abe ha subito reagito dicendo lo ascolteremo, ma come vi dicevo il problema è che tecnicamente la Costituzione giapponese non prevede l'abdicazione dell'imperatore. Dacia Maraini, la scrittrice, fa appunto un ritratto da scrittrice di quella che viene definita la resa dell'imperatore, che ancora adesso per la maggior parte dei giapponesi ha proprio un ruolo sacro, e questa è la prima volta nella storia del Giappone che una debolezza così dichiarata ha la meglio sul potere. Tra l'altro c'è una bellissima foto storica scattata il 15 agosto del 1945, quando Hirohito, che è il padre dell'attuale imperatore Akihito, annunciava la resa del Giappone dopo naturalmente le due bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki pochi giorni prima. Vi cerchiamo di tenere un po', di seguire, continuare a seguire quello che sta succedendo in Libia con il reportage di Lorenzo Cremonesi a pagina 13 del Corriere della Sera. Mine e partite a scacchi, 3 notti sul fronte di Sirte con i combattenti anti-ISIS. Ed è stato appunto proprio lì Lorenzo Cremonesi, e cerca di darci un'idea, un quadro di quello che sta succedendo nella città. Naturalmente poi ci sono tantissimi articoli sulle Olimpiadi, ma oggi già, adesso in Brasile stanno ancora dormendo, ma oggi nuove gare e speriamo nuove medaglie. Dalla Repubblica uno schema molto chiaro, anche perché sono molto brevi le didascalie di tutti i punti, ed è sulla riforma. Il titolo di questa pagina è I due fronti della riforma, dai tagli all'autoritarismo, che è una delle accuse che si fa a questa riforma, la sfida in 8 punti. Che cosa le ragioni del sì, e sono 9 in tutto, 8 in tutto scusate, e le ragioni del no. Quindi uno, insomma, poi forse non basta come approfondimento, però comunque già fotografa la situazione e ci fa capire perché appunto esista un vero e proprio fronte del sì e un vero e proprio fronte del no, perché su tutti questi 8 punti la posizione è radicalmente diversa. La Repubblica torna nelle pagine nazionali anche sulla questione dell'ATAC, il trasporto locale di Roma, i mezzi più vecchi d'Europa e una montagna di debiti. Ora l'ATAC rischia il collasso. A questa esposizione di cui abbiamo parlato anche ieri di 1,3 miliardi accumulata negli anni, e anche il 2015 si è chiuso con un ulteriore rosso di 60 milioni. Dal Messaggero un approfondimento sul vertice che dovrebbe esserci oggi a Roma tra il sindaco Raggi e Paola Muraro. Anche in questo caso, oltre alla questione dei rifiuti, viene citato il dato che è anche in copertina sul Messaggero, cioè che se non si trovano subito 18 milioni per la manutenzione ordinaria, le corse saranno pressoché dimezzate. Un approfondimento sulla questione dei migranti che si stanno accumulando in particolare a Ventimiglia, ma non solo, la trovate a pagina 9 del Messaggero, con la posizione del Viminale che ieri ha detto anche di avere già un dossier su questi no borders, che appunto, visto soprattutto il tipo di armi che sono state sequestrate, ricordano pericolosamente i Black Bloc. Il Messaggero pubblica anche una mappa che ci fotografa così molto graficamente, in modo immediato, i flussi migratori in questo momento verso l'Europa, con anche le differenze tra i paesi che hanno deciso di mantenere le regole di Schengen, che sono quelle che prevedono la libera circolazione delle persone e delle merci e dei capitali all'interno della zona euro, quelli che hanno limitato Schengen, in questo caso sono Francia, Germania, Austria, Norvegia e Svezia, e poi altri, le posizioni degli altri, e anche un ricordo, un memo, sono numeri che non dovremmo dimenticare mai: le vittime nel Mediterraneo nel 2016 sono cifre naturalmente stimate, comunque si tratta di 257.186 persone sbarcate e i morti finora 3.120. Dalle pagine interne della Stampa invece, visto che anche ieri Gabrielli a Ventimiglia, ma anche il ministro Alfano è ritornato sulla questione della ricollocazione dei migranti: se vengono respinti alle frontiere straniere, il problema è non creare questi bivacchi, come del resto abbiamo visto già anche in Francia, ma cercare, per esempio, una delle soluzioni proposte, come abbiamo detto. Tutti parlano di emergenza, però le soluzioni nessuno le ha, però una delle proposte è di ritrasferirli, e allora questo è un compito che spetterebbe soprattutto dal punto di vista organizzativo ai prefetti delle varie città. E quindi l'analisi di Raffaele Zanotti a pagina 3, distribuzione da rivedere, ogni comune faccia la sua parte, perché ci sono molti disequilibri, ci sono 70 province al completo invece 40 con posti disponibili. E appunto c'è questa mappa dell'Italia con due colori per le regioni e le province che sono al completo, per l'appunto, e quelle invece che hanno ancora disponibilità. Un approfondimento anche su quella questione che ci fa capire quanto i computer possano davvero influenzare la vita di tutti i giorni. Ieri, come forse avrete sentito, è andato in tilt il sistema informatico della Delta Airlines, che è una delle più importanti compagnie aeree americane, ha anche molti voli in Italia, tanto che anche a Fiumicino ci sono stati dei disagi. All'inizio appunto è stato subito detto che c'era stato questo blackout informatico, voli a terra per ora, code check-in, disagi anche a Roma e Milano, e alla fine appunto sono stati cancellati 300 voli. A proposito di trasporti, questa storia ce l'ha solo la Stampa, un approfondimento su Benedetta Rese Lucini, che è una millennial, cioè i millennial sono i nati tra, diciamo, il 1980 e il 2000. Lei è del 1983, giovanissima manager, ha guidato la filiale italiana di Uber, quel servizio di auto a noleggio che tante polemiche ha scatenato in tutta Europa e non solo. Adesso però ha lasciato quell'incarico e sfida le banche con una startup creata con due imprenditori, che appunto vorrebbe proporre un modello di banca più leggero che sfida il modello tradizionale. Ci lasciamo un attimo per un altro aggiornamento sul traffico, a proposito appunto di traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, e ancora grazie a tutti quelli che mandano i messaggi, positivi o negativi, ce ne sono alcuni molto negativi, però per fortuna, insomma, ma poi è chiaro, non posso piacere a tutti e forse a volte mi scappano delle opinioni che sicuramente suscitano delle reazioni contrarie. Vi segnalo dalla stampa sempre, visto che parliamo di Olimpiadi e siamo in attesa della, per esempio, della sentenza in tema di doping, della sentenza che darà o no il via libera a Alex Schwarzer per gareggiare. E Gianni Riotta racconta come il doping del futuro potrebbe essere genetico, dal sangue nero all'uomo bionico. In laboratorio si stanno studiando pure, appunto, forme molto più sofisticate e che quindi diventeranno anche molto più difficili da scoprire di doping per l'appunto genetico. L'Avvenire, che ieri non era in edicola, quindi non ha potuto fare questo ricordo, ma recupera ampiamente oggi, a pagina 4, un ricordo con delle foto storiche impressionanti: da una parte i minatori in un momento di riposo e non di pericolo, e dall'altra una foto in cui quattro persone estraggono uno dei, come dicevamo, circa 300 morti in quella tragedia. E quindi una pagina tutta dedicata a Marcinelle, la tragedia di noi emigranti. E anche qui c'è il virgolettato di ieri del presidente Mattarella che, ricordando questa strage, ci ricorda il coraggio e le sofferenze degli italiani all'estero. Forse ricorderete ieri Libero titolava su questa brutto fatto di cronaca che c'è stato a Venezia con l'oltraggio di alcune persone di fede musulmana che sono entrate in una chiesa vicino a San Marco e hanno oltraggiato i simboli, hanno sputato per terra, secondo quanto riportano le cronache locali. E oggi l'Avvenire torna su questa questione. E cita il parroco di San Zulian che cerca di ridimensionare questo caso dell'ostia gettata a terra dagli islamici, perché dice: è stata sì una provocazione, ma non enfatizziamo questi fatti perché così contribuiamo semplicemente alle tensioni. Un interessante risvolto di una delle tante vicende bancarie spiacevolissime che ci sono, che è quella che riguarda in particolare Veneto Banca, ma anche le altre banche che hanno lasciato molti risparmiatori che non avevano tentato speculazioni folli, semplicemente si erano fidate delle banche del territorio e dei funzionari che conoscevano da tanti anni. Sappiamo come si stia cercando di risolvere il problema. MPS è ancora tutta un'altra storia, ma queste banche locali. E qui Don Torta, che è un parroco che da Venezia difende chi ha perso tutti i risparmi in quel territorio, intorno a Venezia, intorno a Padova, a Vicenza, in tutte queste banche che appunto sono state vittime di amministratori molto disinvolti, per usare un eufemismo. Il virgolettato scelto dall'Avvenire per questa intervista è: lo Stato fa come Ponzio Pilato. Si faccia una commissione parlamentare, teniamoci siano state connivenze con i poteri politico e giudiziario. Bisogna mettere accanto al dovere della preghiera quello della conoscenza, nonché la forza della denuncia. Torno un attimo sulla questione delle ragazze dell'arco definite cicciottelle. Sicuramente, ripeto, non sono filiformi, però fa molto effetto, specie perché avevano appena vinto una medaglia, che il modo migliore per descriverle fosse quello, le cicciottelle dell'arco. E Antonio Ruzzo, a pagina 25 del giornale, con cicciottelle e anche l'uso di un'altra parola, pacchi, i media danno il peggio. Bufera social, perché come vi dicevo ieri le proteste poi sono state soprattutto sui social media. Invece quell'articolo che era sulla prima pagina di Libero, all'interno di Libero, ha un'intera pagina e, come vi dicevo, si intitola Cicciottelle non si può dire, ma panciuti sì. Ma non so, ma neanche panciuti, come vi dicevo, anche la definizione data del poliziotto morto, obeso, panciuto, sovrappeso, anche quello non. Soprattutto se ha. Perché può anche essere un dato di fatto, cioè l'obesità, se uno cerca nel dizionario, ha una definizione, ma è come se comunque tra le righe ci fosse un giudizio negativo ed è questo naturalmente che fa effetto sia alla persona a cui è rivolto l'insulto che anche a noi osservatori. Accuse di sessismo per un titolo sulla stazza delle arciere olimpiche. Va bene, l'unità invece fa una sorta di servizio, ma lo dico veramente senza nessun accento polemico, l'unità è il giornale del PD e quindi per chi fosse interessato alle feste dell'unità, anche perché anche solo per vedere che cosa, come si articola questa campagna per il sì, che soprattutto la ministra per le riforme Boschi sta conducendo alle feste dell'unità, e a pagina all'interno dell'unità appunto trovate tutti i prossimi appuntamenti. Un articolo molto divertente in questo caso sul Fatto, perché c'è la portiera Teresa Almeida si chiama, ed è la portiera della squadra di pallamano dell'Angola, pesa 100 kg, c'è una piccola foto sua, quindi decisamente sovrappeso. E il titolo dell'articolo di Mario Sechi, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, chi è l'atleta che ha asfaltato la dittatura del fisicamente corretta, del fisicamente corretto. Sempre sul Foglio altri due approfondimenti, un altro approfondimento interessante, e due in realtà, perché sapete che ci sarà oggi questo incontro a Mosca tra Erdogan, il presidente turco Erdogan, e presidente Putin. Fino a pochi, forse fino a prima del golpe, c'era una sorta di guerra fredda tra i due, perché era stato abbattuto quel caccia russo dall'aviazione turca. Putin aveva avuto una reazione fortissima. Adesso non soltanto Erdogan ha fatto arrestare il pilota che ha sparato contro quel caccia, ma siccome Putin è stato il primo, dopo il fallito golpe il 15 di luglio, a telefonare a Erdogan per trasmettergli la sua solidarietà, mentre l'Europa e anche l'America doveva ancora decidere cosa fare, il premio, potremmo dire così, è questo riavvicinamento. E l'approfondimento di Carlo Lottieri parla di quell'embargo, quelle sanzioni che sono state da poco rinnovate, che riguardano l'export di molti paesi europei, tra cui naturalmente l'Italia, verso la Russia. L'embargo russo fa male alla nostra agricoltura senza di fatto infastidire Putin, perché lo scopo dichiarato di tutte le sanzioni economiche è sempre infastidire le dittature o personaggi politici che vengono giudicati da chi mette l'embargo, da chi decide di mettere l'embargo, siano queste organizzazioni internazionali o singole nazioni, come hanno fatto gli Stati Uniti con Cuba per tantissimo tempo, appunto vengono definite per, così ci viene raccontato, per punire i vertici di un paese la cui condotta non piace. Però se guardiamo poi i dati, per esempio in questo interessante articolo scopriamo che soltanto nelle Marche, che è una piccola regione e però esportava tantissime calzature per esempio verso la Russia, in due anni il totale delle esportazioni è passato da 725 milioni a 421, e non è certo bloccando le nostre produzioni alla frontiera che si può favorire uno sviluppo in senso liberale della società post-sovietica. Però abbiamo ancora qualche minuto per qualche notizia un po' così di pensiero laterale, se vogliamo, non strettamente legato alla cronaca. I giornali raccontano appunto molte storie di questo genere. Vi segnalo preso i giornali al contrario, la questione di Delta la trovate anche analizzata sul Corriere della Sera, con appunto questo segnale che ci viene che siamo veramente potremmo dire in balia della tecnologia a volte. Ma dal Corriere della Sera vi segnalo un articolo di Elisabetta Rosa Spina dalla Francia. Sapete che il premier Hollande, il presidente Hollande, è in grave difficoltà, alle prossime presidenziali avrà tra gli avversari Marine Le Pen, che lo ha già ampiamente sconfitto il suo partito alle amministrative, e probabilmente tornerà in campo Sarkozy. E allora Elisabetta Rosa Spina ci racconta Sarko, che è il diminutivo di Sarkozy, di Nicolas Sarkozy, e Carla, cioè Carla Bruni, la sua terza moglie, strategia a due per il ritorno. Le foto sono di lei con la sua chitarra, perché sapete che dopo aver lasciato le passerelle è stata una top model per molti anni. Si è inventata questa seconda vita lavorativa come cantautrice, e invece dall'altra Sarkozy in bicicletta, perché come molti altri leader ama mostrarsi mentre appunto fa sforzi fisici estremi. Parlavamo di doping, questa è una questione del doping tra i giovani che, su cui non ci sono dati, ma ogni tanto arrivano delle notizie inquietanti. E oggi la notizia è che a Varese, al traguardo di una corsa ciclistica a cui prendevano parte dei giovani ciclisti di 12 anni, ci sono stati dei controlli antidoping. La federazione ha protestato con il ministero e molti genitori erano sconcertati. Però il medico sportivo Gianfranco Beltrami, intervistato da Claudio Delfrate, dice: in realtà, per strano che possa sembrare, è giusto, perché conosco ragazzini con dei papà pronti a tutti. E non è appunto la prima volta che si parla di questo pericolo terribile, che si abbassi l'età in cui si usano sostanze dopanti per lo sport, per chi si avvia o vuole fare sport a livello quasi professionistico o che comunque partecipa già a gare anche se è molto giovane. Sapete che la mia passione per la scienza e la divulgazione scientifica, a pagina 15 della Repubblica, quello che viene definito il dietro fronte di Ginevra, forse lo ricorderete, si era parlato di questa scoperta di una particella che non c'era nel grande acceleratore, questo impianto fantascientifico che c'è al CERN di Ginevra per trovare le particelle, scoprire nel sogno di molti scienziati da dove arriva la vita dal punto di vista scientifico. Beh, il cugino del bosone in realtà non c'è. La rivoluzione può attendere. Dietro fronte a Ginevra, i dati che avevano fatto sognare l'esistenza di una nuova particella non hanno retto ai test, ma gli scienziati, che tipicamente a ogni sconfitta devono ripartire, specie quando appunto i test disconoscono i primi risultati di alcuni esperimenti, dicono pronti a seguire altre strade. Vi segnalo, la trovate su molti giornali, questa questione della Corte dei Conti, che ieri ha riscontrato alcune irregolarità sul restauro del Colosseo, che è stato quasi interamente sponsorizzato dal gruppo Tozzi di Diego Della Valle, finora con più di 25 milioni di euro. Però per la Corte dei Conti ci sono alcune irregolarità. Questa è una c'era stato all'inizio anche un ricorso di alcune associazioni dei consumatori, e sicuramente seguiranno altre polemiche, perché che i nostri monumenti abbiano bisogno di restauri è vero, che manchino i soldi è altrettanto vero. Quando i privati partecipano, poi spesso le cose per i motivi più disparati non vanno lisce. Era però l'ultima segnalazione per oggi. Ringrazio Peter Bescapè in regia e vi ricordo che appunto dopo il GR c'è Ma che estate è, dove si parlerà di referendum, di questo vizio di giudicare le persone, soprattutto le donne, dal punto di vista fisico, ma anche di come portare gli animali in vacanza. Una buona giornata a tutti da Giulia Crivelli.